Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Inizia prove tecniche di trasmissione anche per oggi, 25 ottobre del 2017. Uno spazio che andrà avanti sino alle 22.30 circa e poi ci sarà 25 o'clock come al solito, che andrà a chiudere fino a intorno alla mezzanotte e dintorni. Telefono 0649 1750, sito internet www.ondarossa.info anche per usufruire del nostro streaming già abbastanza sfruttato in questo momento. Per le comunicazioni mediante posta elettronica ondarossa@ondarossa.info e per quanto concerne prove tecniche di trasmissione, domani sulla pagina Facebook, sul profilo Facebook prove tecniche di trasmissione /disorder e su questo di DJ Electrodo si potrà trovare playlist e podcast. Per quanto riguarda la sottoscrizione, in questo periodo più che mai, 61 80 40 01, conto corrente che va intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via Volci 56 00185 Roma. Nel sito stesso si possono trovare le modalità cosiddette più elettroniche. Cominciamo con il giro dei saluti. Alessandra qui da Roma, Maya addirittura dall'Argentina, quindi un saluto al quadrato. Raffaele Pezzella da Napoli, Like Awake qui da Roma. E diamo inizio alle danze andandoci ad ascoltare forse l'ultimo lavoro, se non il penultimo, di Letum, che per un periodo fu un progetto accasato presso la Cold Meat Industry, etichetta svedese fondata da Roger Karmanik dei Brother Than Now. Rappresentava, diciamo, il versante più dark ambient insieme a Rise on Death e altri, e da quella diaspora comunque questo è uno dei pochi sopravvissuti a quella generazione. L'album in questione si chiama The Filth State of Grief. Cast Me Into the Depth e Let Go, le due tracce, le prime due tracce di questo album. ennesimo progetto proveniente dalla Scandinavia, dalla Svezia. Si chiama Letum e l'origine del nome ovviamente è un latinismo che va a significare il fiume Lete e quindi Divina Commedia, quindi Dante Alighieri. Lui è Mattias Eriksson, dichiara origine svedese, da Lindesberg. Tre album al suo attivo, i primi due nel 2008 e nel 2006 con la Cold Meat Industry, e questo invece è autoprodotto, questo The Filth State of the Grief del 2014. Naturalmente un progetto non molto originale, questo è vero, ma l'importante poi è fare le cose con qualità. E lui si pone sulla scia di Raison d'être, Desideri Marginis e tanti tanti altri. Personaggi provenienti dal Nord Europa e non soltanto. Salto geografico abbastanza consistente. Iran, l'Iran che abbiamo conosciuto e stiamo conoscendo meglio grazie a Raffaele Pezzella, ossia Sonologist. La sua Visions of Darkness in Iranian Contemporary Music è un compendio eccellente e prezioso per renderci un po' conto delle delizie che vengono proprio dalla Persia, dall'Iran. Questa sera altre due tracce, ossia Anunnaki Signal con Father e poi Suhail Suhaili con Laboratory. Esmaili Akazimi, aka Akunaki Signal, questa traccia estratta da questo Visions of Darkness, questo compendio che va un po' a conoscere e analizzare in maniera abbastanza approfondita la misteriosissima scena iraniana. Eccolo qua, Soheili con questo Laboratory, sempre atmosfere vagheggianti, il dark ambient, la space music. Thank you. ennesimo talento proveniente da Teheran, questo Soheil Solehili, scrittore, produttore, diciamo dunque un artista multimediale. E vorrei ricordare ancora una volta che se chiunque fosse interessato ad acquisire informazioni più dettagliate, se ne può andare su Unexpressed Sound Group, gruppo di Facebook, ma anche sul riferimento Backcamp, dove per ogni compilation ideata da Raffaele Pezzella ci sono delle notizie molto dettagliate, per l'appunto, che il buon Pezzella ci ha fornito, e lo ringraziamo ancora una volta. Svezia, Iran e adesso Italia. Vera e propria rivelazione del 2017, Rumpling di Sara Cappai, artista proveniente dalla Sardegna. La glaciale marmorea bellezza di questo Cold Device, la sua Cold Wave, con degli accenni, direi, di sperimentazione, di industrial, in 5 tracce intensissimo. Ci ascoltiamo The Mist on the Marshes e Cold Device, appunto quella traccia che dà il nome all'intera opera. ancora Rumbling da questo Cold Device. Ecco il brano omonimo da Rosso 87.9, prove tecniche di trasmissione. Bene, una delle rivelazioni di questo 2017 è questo progetto al femminile Rumpling di Sara Cappai, fondatrice anche della Teeny Speakers, un'etichetta sarda che si muove anche, direi, bene nel panorama mostrano. E in contemporanea, per l'appunto, nasce anche Rumpling, questo progetto Cold Wave, anche se nel caso, per esempio, della title track Cold Device, secondo me anche si possono riscontrare delle fughe psichedeliche in avanti. Veramente un progetto interessante e che speriamo dia alla luce poi un album di tutto punto, un lungo album. Intanto si va a salutare Wurnus Eileen, un pezzo di storia dell'industrial nostrano, esattamente dal Piemonte come dal Piemonte, sempre dalle parti di Asti, c'è Enrico Cerrato con Petrolio, che salutiamo. E a proposito di pezzi di storia, eccone qua un altro. Lui è Gianluca Becuzzi, qui come Kinetics in combutta con Corrado Altieri. Un Becuzzi particolarmente attivo e staccanovista. Dopo la collaborazione con Massimo Olla, eccolo qua anche con un altro sardo, Corrado Altieri. In passato lo abbiamo apprezzato anche come Uncodified, come Candor Chasma ed altre cose. Questo lavoro si chiama New Dystopian Order, con un profilo più elettronico del solito per quanto riguarda Becuzzi, il che si può anche vincere dalla traccia di iniziale del nome Terror Propaganda. Salutiamo con favore l'ennesima performance di Gianluca Becuzzi, questa volta in ottima compagnia di un'altra vecchia volpe che risponde al nome di Corrado Altieri. Era Terror Propaganda, estratta da New Dystopian Order, questo autoprodotto lavoro con 50 copie stampate. Una bellissima confezione a 5, molto interessante, ma soprattutto interessante il materiale ivi contenuto: breakbeat, noise, schegge industriali sparse qua e là. L'ennesimo aspetto di Gianluca Becuzzi. .21:56, onda rossa 87.9 in modulazione di frequenza, prove tecniche di trasmissione anche per oggi 25 ottobre del 2017. Comincio con il dire che il sottoscritto si prenderà una breve vacanza proprio da mercoledì 1 a mercoledì 8 novembre. Me ne andrò in Polonia a un ottimo festival che si terrà Wroclaw, un festival storico con nomi eccellenti. E quindi, per quanto riguarda prove tecniche di trasmissione, il ritorno sarà stabilito per il 15 novembre. Ma andiamo oltre, questa volta si ritorna in Svezia con Trepan Eringsritualen, altro misterioso personaggio che è inciso spesso per la Malignant Records, questa etichetta americana. Ha stampato una serie di compilation con tutta aventi questo nome, The Totally of Death. Questa è del 2013. Noi andiamo ad estrarre All Hail the Black Flame, Lord of the World e Drunk with Blood.